America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Good evening from Hofstra University in Hempstead, New York. I want to welcome you to the first presidential debate. Democratic nominee for President of the United States, Hillary Clinton, and Republican nominee for President of the United States, Donald J. Trump. Il dibattito presidenziale alla Hofstra University di ieri notte si è chiuso, direi con una vittoria alquanto schiacciante di Hillary Clinton nei confronti di Donald Trump. Donald Trump, attenzione, che era partito bene, che è apparso più presidenziale di quanto non apparisse nei confronti all'interno del Partito Repubblicano durante la stagione delle primarie, meno aggressivo e diciamo anche meno volgare, ma questo non gli è bastato. In questo primo dibattito Hillary Clinton ha mostrato di essere in controllo totale, preparata, ha mostrato distacco, ha affrontato tematiche difficili, ad esempio quelle delle tensioni razziali. Negli ultimi giorni abbiamo visto quello che è successo in America e ha enunciato uno per uno il programma, il progetto che si dovrebbe perseguire. Sentiamola. So we have to do two things, as I said. We have to restore trust, we have to work with the police, we have to... Ecco Hillary che dice: dobbiamo ricostruire la fiducia fra le diverse comunità, collaborare con la polizia affinché le comunità afroamericane siano rispettate dalla polizia e si rispettino fra loro. Dobbiamo eliminare la piaga delle armi, togliendole ai soggetti pericolosi. Ecco, Hillary ha cercato poi di costruire un discorso anche più impegnativo, più complesso, più difficile. Ha detto a un certo punto: dobbiamo renderci conto che c'è qualche cosa che non va nei confronti delle comunità afroamericane. Noi stessi, nel nostro intimo, dobbiamo ammetterlo, ci sono troppo spesso delle riserve che abbiamo nei confronti di certe minoranze. Ecco, qual è stato il tema di fondo su questo argomento di Donald Trump? A couple of words, and that's law and order. And we need law and order. If we don't have it, we're not going to have a country. Legge e ordine, law and order, ha continuato a ripetere un po' questo slogan, e questo è un esempio classico di come è andato il dibattito ieri sera. Da una parte Hillary Clinton, che aveva argomenti molto importanti, molto seri, dall'altra Donald Trump, che cercava di ricorrere a degli slogan. Alla fine gli slogan però hanno le gambe corte e ne puoi raccontare uno, due, ma alla fine, al terzo, la gente comincia a chiedersi quale sia la sostanza vera dietro questo signore che vuole fare il presidente degli Stati Uniti d'America. Maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Ecco, un altro passaggio, in questo caso Hillary Clinton, che attacca Donald Trump sulle tasse. Donald Trump aveva cercato di attaccare Hillary sulle email che non aveva reso note, le 30.000 email. Hillary Clinton ha chiesto scusa, ha detto di aver sbagliato, ha detto l'ho già detto altre volte e dunque di essersi pentita di aver fatto quello che ha fatto. Però, dice, parlando di rivelazioni che non vengono fatte in una campagna elettorale, abbiamo le dichiarazioni fiscali di Donald Trump, dichiarazioni fiscali che ciascun candidato negli ultimi 40 anni ha rilasciato al pubblico. E qui c'è la dichiarazione che vi ho fatto ascoltare di Hillary. Cioè, credo che ci siano alcune motivazioni per cui Trump non voglia rilasciare la sua dichiarazione sui redditi. Primo, non è così ricco come sembra. Secondo, non è così generoso come si vanta di essere. Oppure non ci fa vedere le sue dichiarazioni sul reddito, magari semplicemente perché non vuole che voi, tutti voi che state guardando questa sera e che pagate tutti gli anni le vostre tasse, sappiate che invece lui le tasse non le ha mai pagate. E proprio questo passaggio ha avuto poi una conclusione che ha danneggiato Trump, e da lì in avanti, devo dire, non si è più ripreso. È stato veramente un passaggio chiave. Sentiamo. And we don't have the money because it's been squandered on so many of your ideas. And maybe because you haven't paid any federal income tax for a lot of years. Hillary che dice, mancano i soldi perché i ricchi non pagano le tasse. Trump, l'avete sentito che risponde, cioè l'America non ha soldi perché sono stati sperperati dalle tue idee, da quelle dei politici. E Hillary che lo interrompe dice, o forse perché non hai pagato le tasse? E Trump risponde alla battuta, sarebbero stati soldi sprecati comunque. Ecco, uno scivolone classico. Donald Trump forse non si rendeva conto di quel che diceva, ma di fatto ha ammesso implicitamente che forse lui le tasse non le paga. Donald just criticized me for preparing for this debate. And yes, I did. And you know what else I prepared for? I prepared to be president. And I think that's a good thing. Ecco, questo è di nuovo un altro passaggio fra i due molto interessante. Trump accusa Hillary di essere rimasta a casa per prepararsi al dibattito invece di andare al fronte, invece di visitare gli stati. Io ho visto gli stati in questi giorni, posso dirti, ha detto che le condizioni economiche sono terrificanti, che la gente è davvero molto depressa. E a quel punto Hillary lo interrompe, dice sì, dice io sono rimasta a New York per prepararmi a questo dibattito, perché è un dibattito importante ed occorre essere preparati. Ed è quello che farò quando diventerò presidente degli Stati Uniti. Ecco, una battuta che ha gelato Trump, il quale si vantava di non essersi preparato per questo dibattito, per poter invece improvvisare liberamente, cosa dice che gli viene davvero molto bene. E beh, purtroppo non ha funzionato in questo caso e emerge una domanda di fondo. Serve la preparazione? Serve come? L'abbiamo visto appunto in questo dibattito. Hillary, informata, calma, pronta a snocciolare dettagli, impreparato, vago, in cerca di slogan già ascoltati, il grande mobiliarista. E devo dire che dovendo pensare allo scontro fra questi due personaggi così importanti per la politica mondiale, lungo 90 minuti, volati in un attimo, il più importante insegnamento che tutti noi, ma soprattutto i nostri giovani, dovrebbero derivare da questo confronto è che studiare, capire i dettagli, scavare dietro l'istinto della prima reazione, provare serve e come. È un messaggio importante quello che ci ha dato ieri notte Hillary Clinton, una lezione per questi tempi in cui il populismo dilaga, è un memento, un ricordo per coloro che elogiano la superficialità di uno slogan, l'improvvisazione, che confondono l'intuito disinformato della persona normale con la risposta ai problemi del mondo. Ci sarà naturalmente qualcuno, come ha fatto Trump, che criticherà questa preparazione, giudicandola eccessiva, poco naturale, calcolata. Infatti Trump ha detto letteralmente «abbiamo bisogno di senso comune, non di finzioni da teatro». Questa è stata una sua battuta dopo il dibattito, quando si era accorto di essere in difficoltà. Però, devo dire, lo studio non è finzione, è preparazione. E il Donald Trump, che contava solo sul suo proverbiale istinto per vincere, beh, non ci è riuscito. Chissà che non si prepari meglio per il prossimo confronto, sempre che sia davvero capace di studiare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più né più difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, per Hillary Clinton è andata bene ieri sera, beh, ci sono altri due dibattiti, la strada è ancora lunga, ma comunque ieri sera per lei la performance si è chiusa nel modo migliore e dunque dai Foreigners le dedichiamo I'm Going to Win, vincerò. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.